Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda per l'appunto il sabato pomeriggio alle ore 14 su 103.1 FM e disponibile dal lunedì, martedì mattina, diciamo, sul nostro sito www.radiovanloon.info ed entriamo nella puntata di oggi. Puntata di oggi che ci vedrà presentare, come un po' nostra consuetudine, un libro. Parliamo anche questa settimana di letteratura di storia, in cui ci piace molto vedere come delle piccole storie raccontate in un libro si prestino ad entrare nella storia, quella con la S maiuscola. Questa storia che con la S maiuscola è quella degli anni 30 italiani. Sono un paio d'anni che va dal 1937 al 1938, e anni pesanti, diciamo, di un avvicinamento, che vedono un avvicinamento importante poi l'alleanza fra Italia e Germania. Sono gli anni in cui matura quel clima che porterà alle leggi razziali, e la prospettiva con cui viene guardata questa grande storia particolare, che è quella di un diciamolo, di un orfanotrofio, in cui si trovano due bambine, Agata Modio e Virginia Levi, che con i loro occhi vedono quello che si sviluppa. Queste due bambine dove le troviamo? Le troviamo nel romanzo che andiamo a presentarvi, che è Piccola Italiana, edito da Fernandel nel 2018 e scritto da Giacomo Cacciatore, che avremo fra poco con noi al telefono per presentare per l'appunto questo libro. Prima di entrare in intervista, ci ascoltiamo un pezzo. Il disco di oggi è un disco che apparentemente non c'entra assolutamente nulla, perché sono gli Askerdu, un gruppo che a me piace tantissimo, un gruppo del punk e dell'alternative rock americano degli anni 80. Vi proponiamo il disco che è Candy Apple Grey. Perché questa scelta? Perché è un disco che racconta molto di emozioni, ma racconta molto di un confronto fra le persone, della costruzione di una propria identità, spesso anche a spese degli altri. Si prestava bene, secondo noi, per raccontare questo libro. Per cui iniziamo subito con I Don't Wanna Know if you Are Lolly, se l'ho pronunciato bene. Buon ascolto. I Siamo qui con Giacomo Cacciatori e il suo romanzo La piccola italiana, edito da Fernandel. Ciao Giacomo e grazie. Ciao. Ciao, senti, buongiorno, io partirei direttamente con la domanda, perché quello che ti vogliamo chiedere, cioè siamo davvero curiosi di parlare del libro. Senti, il romanzo, pur seguendo le orme della grande storia, siamo nel biennio tra il 37 e il 38, ci sono, sì, c'è il patto anti-Comintern, la promulgazione delle leggi razziali, e anche o soprattutto un romanzo che parla delle difficoltà dei rapporti fra due bambine, Agata e Virginia, e del loro processo di costruzione dell'identità. Sì. Ti chiediamo se ci puoi presentare le due protagoniste e, secondo te, cosa offre il punto di vista di due bambine sulla grande storia? Sono due punti di vista abbastanza contrastanti. Agata è una bambina ribelle anche per la propria storia personale, visto che è stata abbandonata davanti al collegio in cui si ambienta il romanzo. E mentre Virginia invece è una, a proposito di identità, è una finta collegiale, nel senso che ci troviamo in un orfanotrofio, e Virginia è stata confinata, tra virgolette, dentro l'orfanotrofio dal padre, proprio perché, diciamo, non possa e non debba correre rischi, visto che si tratta di una bambina ebrea, visto che siamo a ridosso appunto delle leggi razziali che tanta paura e tanti danni hanno procurato. Allora, senti, volevo chiederti una cosa per cercare di entrare un po' nel romanzo senza, come si dice oggi, fare spoiler sulla trama. Però sì, la cosa che è molto interessante è questa, cioè parti con la storia di due bambine, come diceva Olga prima, due bambine che sono spettatrici, fra virgolette, di quest'Italia fascista e di quest'Italia totalitaria, ecco. Sì. La cosa che mi ha colpito è veramente questo rapporto che costruisci, come ovvio, un romanzo d'ambientazione storica con la storia, con gli elementi che hanno costituito l'Italia fascista e l'Italia totalitaria. Mi aveva colpito naturalmente il personaggio della maestra, poi vigilatrice, Italo Calcaterra. Che, cioè, che sembra proprio fatta apposta, cioè questa donna che sogna delle relazioni impossibili con Mussolini, che gli appare come un fantasma notturno. Sì. E lì mostri molto bene come come sia stato costruito questo consenso, cioè tramite questi temi a tematica propaganda cultura fascista. Sì. Ma allo stesso tempo inserisci anche degli elementi che sono state delle grandi innovazioni del fascismo dell'epoca. Uno su tutti, la radio. Che è un'altra protagonista del libro, e poi anche la psicologia nelle vesti del dottor Marcus come forma di indottrinamento. Sì. Io ti volevo chiedere, in che maniera hai raccontato nel romanzo, per l'appunto, questa forma dell'educazione fascista e dell'indottrinamento dei cittadini, e in particolare dei bambini? E su quali materiali ti sei basato per costruire la tua narrazione? Dunque, innanzitutto mi sono documentato ampiamente sul periodo fascista, non solo per precisione storica, ma soprattutto anche per respirare e vivere nei limiti del possibile l'atmosfera che si respirava e si viveva in quel ventennio e in quel biennio che abbiamo citato. Devo dire che sono stato aiutato non soltanto dallo studio delle fonti storiche, quindi vari libri eccetera, ma sono stato aiutato anche dall'ombra lunga della fase politica e sociale che stiamo vivendo proprio in questo momento. Quindi io tenevo molto a che uscisse questo romanzo proprio in questo periodo, perché ho trovato in un certo senso, delle similitudini, anche se sopite, anche se sotterranee, con un possibile prossimo futuro. Dico, senza essere catastrofisti, voglio dire, alla fine, diciamo, i meccanismi della propaganda, dal mio punto di vista, al mio modo di vedere, cambiano soltanto, diciamo, per quanto riguarda gli strumenti e quindi l'efficacia dello strumento e la rapidità dello strumento. Io direi che una Itala Calcaterra non mi stupirebbe di vederla oggi in una trasmissione di coppie, di aspiranti fidanzati, eccetera, di cui siamo tutti a conoscenza, quindi in televisione. Allo stesso tempo mi sono reso conto del fatto che la radio non era molto diversa da quello che stiamo vivendo adesso, quindi dalla televisione, da internet, dai social network, come strumento di propaganda. Quindi non ho avuto grossa difficoltà, una sensazione di straniamento nell'affrontare questo argomento. Ecco, allora, prima di andare avanti nella chiacchierata con Giacomo Cacciatore, l'autore di Piccola Italiana, edito da Fernandel nel 2018, proseguiamo nel nostro ascolto di oggi, un ascolto un po' particolare, perché, come dicevamo, suona dagli anni 80 americani, ma ci racconta queste storie emotivamente molto forti, e poi ritorniamo. No need to touch it now, no, I'm doing it. Siete sempre su Vallun, siete con la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio sui 103.1 FM e stiamo chiacchierando con Giacomo Cacciatore, autore di La piccola, piccola italiana, un libro edito da Fernaldel nel 2018, che è un tuffo negli anni 30 del regime e negli anni 30 dell'alleanza, dell'avvicinamento e poi dell'alleanza fra Germania mussoliniana e fra Italia mussoliniana e Germania nazista. Volevo chiedere una cosa, Giacomo, che mi ha colpito molto. Allora, il libro che hai scritto è scritto in una maniera un po' particolare e gioca molto con la componente linguistica, sì. Perché ritorni molto spesso, cioè soprattutto poi mi colpisce, è molto bello quando lo metti in bocca ai personaggi, ma riutilizzi la lingua della letteratura degli anni 30, sia della letteratura alta ma anche della letteratura popolare degli anni 30, sì. E dai proprio l'effetto di questa lingua, di questo italiano roboante, pieno di immagini molto, molto forti, una lingua quasi arzigogolata, che fra l'altro colpisce molto, e questo veramente non diciamo molto di più, si presta all'interno del romanzo anche a essere messa sotto critica, a essere fatta oggetto di satira. Ci puoi raccontare l'uso che hai fatto della lingua fascista, diciamo, e anche qui su quali documenti ti sei basato per ricostruirla? Allora, la storia della piccola collegiale, della piccola italiana nel collegio, nasce innanzitutto da una suggestione che ho ricavato dai racconti di mia madre. Mia madre ha vissuto un'esperienza di questo tipo da bambina. I suoi genitori e i suoi fratelli erano profughi in Libia sotto il fascismo e mia madre è stata trasferita in un collegio di Milano. E quindi, diciamo, io sono un po' cresciuto con questi racconti un po' foschi. Non è stata una bella esperienza per lei, che avevano anche qualcosa di gotico in qualche modo, e quindi diciamo questo è un punto di partenza. Per il resto, diciamo, mi sono anche ispirato a certi romanzi che avevo visto sugli scaffali della biblioteca di mia madre, che erano dei romanzi del ventennio. Mi affascinavano già i nomi degli autori, Salvatore Gotta, Luciana Peverelli, eccetera, che mi facevano anche un po' sorridere. Da questa onomastica ho cominciato a maturare una formula che fosse, diciamo, anche satirica nei confronti del linguaggio fascista, visto che il fascismo, per quello che ne so, si basava specialmente sul linguaggio roboante. C'era questo contrasto tra il roboante, il guerreggiante, il rombo del cannone e dall'altra parte anche un romanticismo melenso. Questo, diciamo, era il tipo di stile che ho voluto adottare, anche perché io comunque rappresentava anche una sfida per me, perché provengo da un ultimo romanzo precedente a questo, appunto, immediatamente precedente, che parla di un fatto di cronaca a Palermo, quindi niente di più lontano e distante da un linguaggio diciamo immaginifico quale quello che ho usato in questo romanzo. Quindi era una sfida innanzitutto linguistica ed espressiva, e poi, diciamo, è necessaria, bisognava superarla questa sfida, proprio perché bisognava dare il senso e l'atmosfera che tirava, diciamo, in quel periodo abbastanza cupo e fosco, che io non ho vissuto, però, diciamo, ho vissuto in qualche modo attraverso le suggestioni di cui ho parlato. Bene. Grazie mille a Giacomo Cacciatore per essere stato con noi. Ricordiamo il libro che ci ha presentato, che è Piccola Italiana, edito da Fernandel nel 2018. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi tantissimo. Grazie. Cry. I worked in the field. sulle note finali degli Askerdu con Candy Apple Grey, il disco che ci ha accompagnato in questa puntata, e ringraziamo ancora Giacomo Cacciatore per essere stato con noi e averci parlato di Piccola Italiana, il suo ultimo libro edito da Fernandel nel 2018. Sì, Frey, grazie. Io vi segnalo un appuntamento importante, perché quello che vi andrò a segnalare, gli autori di questo libro che vi segnaleremo, saranno poi i nostri ospiti tra un paio di settimane, e domenica mattina alle 11, se vi trovate a Crespellano, nella sala conferenze di Palazzo Garagnani, c'è la presentazione del libro Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, appena uscito, edizioni Pendragon, con gli autori Alfredo Minnini e Enrico Pontieri e con lo stesso Otello Palmieri. Quindi è una bellissima occasione per incontrare il protagonista del libro, un partigiano, un resistente, e gli autori del libro. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'ascolto da Frey e Olga. Buon proseguimento di giornata, ciao!